ce l'ho il rosso, è troppo il momento, dai, lo devo ordinare. Eia, poi dipende, sai cos'è? Cioè, se tu la lasci 4 watt in AM e 12 in banda laterale, se c'hai qualcosa da pilotare, lo piloti bene ed esci bene, capisci a me. Se invece li metti watt alti e poi vai a pilotare qualcosa, uscirai saturo. Infatti, con quella da Calusi, ma poi si deve attaccare a che cosa, ma che ci vedi. È inutile dare troppo ingresso che satura la radio. Luca, guarda che Massimiliano ha detto che ti manda lui quello che devi fare, nel senso ti fa la foto e te lo manda lui dove devi toccare il trimmerino, capito? Lui lo conosce bene quello lì, che è uguale al 5005. Allora, qua dice AM Modulation VR14. Come il 5005? È uguale al coso, a quello che c'ha lui, come si chiama? Al Tornado mi sembra, 5005, boh, 4005. No, è al Tornado 4005. Sì, sì, è uguale al mio, è tutto uguale, so, tutto uguale, so. Non puoi sbagliare. Però io, cioè, gli consiglierei di lasciare potenze basse. Proprio in previsione di pilotare qualcosa. Perché tanto poi si mangia la radio, se gli aumenta. Poi Luca, una cosa, quanti finali ha quella radio? Ce l'hai aperta? Ne ha uno grande, due piccoli dietro e uno di fianco. 3-4 finali c'ha. Te l'ho mandato. Fai una foto del finale. Fai una foto, mandamela. Sì, ce l'ho, Cla, ce l'ho. Mi ha mandato Massimiliano. Ah, vabbè. Caspita, la propagazione è già dal mattino, oi. Ehi, da salvaccio, fate il bici. E in banda l'avete provato? Ah, boh, se lo vuole provare con me, io le dico se è centrato o no, perché sono a sintonia continua. Non te lo provi con i baracchini. Ah, Cla, vai, USB, vai. Andava, da. Va bene anche in banda laterale, centrato, sei appena appena col decimale a 0,2, ma non fa niente. È proprio nulla, zero. Guardate se aumenta la radio, dai. Come Lu? Che si aumenta, si abbassa la radio. Sta abbassando la radio adesso, è più bassa? Marco? Non lo so, ma non stare, ma il team, cioè, la stai toccando. Guarda se è più bassa la radio, mi devi dire se è più bassa o meno, dai, più bassa. Forse sì, sai cos'è, sto toccando il volume io in continuazione. Uno veloce, ma deve essere più bassa la radio. Claudio, dai un controllo di radio. Se veloce. Ma guarda, ma così cambia qualcosa. Sì, sì, ha cambiato parecchio, adesso è forte. Sì, sì, adesso l'ho sentito, però stai uscendo a scariche. Tipo microfono pigiato male o cavetto che fa scariche. Riprova. Guarda un po'. Prova radio. Sì, adesso l'ho sentita la differenza, in un passaggio unico l'ho sentita, come? Più bassa, più alta, Sì, ma stai muovendo cosa, il trimmer? No, ho toccato, appena l'ho spostato, il VR14, Eia, invece il 12 è per la potenza SSB. Però, se non hai strumenti, non le potenze non le toccare. Ma no, vabbè, solo la radio ho toccato. Capito Marco, solo la radio e basta, dai, non tocco altro, basta, lascio così, poi con il linearetto c'ha i suoi 4 watt e non la tocco, lascio così. Ma volevo capire, da questo passaggio, guarda bene, solo faccio un microfono normale, mi aspetta. Ehi Antone, ciao, aspetta che proviamo con Luca. Allora, guarda il microfono normale Marco, c'è aumentato qualcosa, è migliore di prima. Sì, guarda, per essere il microfono normale spinge Luca. Non crede che il mio spinga di più, mi? Ha aumentato Luca. Ha aumentato il radio, ok, da, lo lascio così allora, non tocco più nulla, usare, buonanotte, da. Lei infatti non mi interessa. Chi mi vuole ascoltare mi ascolta, e se non se la biglia come te possa ma. Come? Da questo passaggio all'altro è cambiato qua, si è più basso adesso del radio, mancano gli acuti. Cosa hai fatto? Sono. Questo è il mic normale, Claudio. In qualsiasi modo. Allora, una cosa vi dico, parlate una alla volta, non parlate tre, tutte e tre assieme avete parlato, eh. Sì, ma se Natalino è veloce, e lo so che Natalino arriva più forte di tutti lì da te, ma io non sono due esalitti, basta aspettare un attimo, ti ho fatto una domanda, ok? Ti ho detto, se stai usando il microfono normale adesso. Sì, sì, sì, sto usando il microfono normale. Aspetta, guarda, ti faccio la prova, da così a così, c'è differenza? Sì, sì, sì, sì, è più alto il primo passaggio, rimettilo com'era. No, adesso come la prima, ok? Perfetto, boh, puntella, lascialo stare così. Guarda adesso, Cla, con microfono da tavolo, ha migliorato, aspetta, sto innescando, se mi voglio ascoltare, sto innescando, cioè, ha migliorato la radio. È uguale a quella del Typhoon, non cambia assolutamente niente, fortissima. È come che stai usando il Typhoon. Ok, dai, puntello anche qua, boh, finito il gioco, guarda, lascio così. L'unica cosa che mi dispiace è che è un bel po' graffiata, però pazienza, ormai è qua. Vabbè, i grafici possono sempre togliere dal giudizio, non ti preoccupare, l'importante vada bene la radio. Esci molto bene, veramente molto bene con l'MB più 4. E poi c'è questo potenziometro, questo del RSGIN che fa un... Sì, vabbè, lì lo smonti e le spruzzi un po' di spray, non è niente, a tutti i denti. Però la radio va bene, ecco, questa è una bella modulazione, quella che c'hai sempre. Se tu usi il Typhoon e usi questo, non se ne accorge nessuno. Ok, da. Andava, boh, lascio così, non voglio stressare la vita, a me non c'è ogni volta stare lì a fare prove, però lo lascio così e boh, dai, basta, finito, io per me è finita. E se non me ne usare di Duca, non ce n'è prova da fare, lascialo così e boh, finito. Ok. Hai visto che differenza rispetto a quello di quell'altra persona? Ma io non voglio, ma questo discorso per me è già chiuso, però quando io dico una cosa e uno si adira, è molto molto meglio questo, ma molto, già col microfono normale spinge benissimo, con l'MB più 4 che è uguale all'MB più 5 con i toni chiusi, è completamente diverso, nessuno può dire il contrario, cioè non è che uno ti chiede un controllo e tu sei lì con qua che dici stronzate, le cose si fanno professionalmente, io professionalmente dico che c'è un abisso e nessuno mi può dimostrare il contrario, l'ha detto anche Natalino che ha fatto le prove, quindi per me è così, o non è così Natalino, non lo so. Luca, sto dicendo come che abbia il time. Quindi ne conviene che cioè, è molto meglio quella di quella di Gianni, io dico quello che penso e quello che sento, non posso dire il contrario, esce molto meglio, già col microfono normale spinge molto di più, non lo so il perché, io non so il perché e non lo voglio sapere, però quella di Luca spinge molto di più col microfono normale e sono tutte e due aperte. Una curiosità, Luca, quale versione è del 3009? Cioè dietro c'è scritto qualcosa, c'è qualche targhetta? E forse lo sta chiudendo, dai. Va bene, io sono col mic normale, devo fare ancora colazione, mi belli be. Ti abbiamo anche disturbato. No, comunque ero sveglio, Natalia, ero sveglio, solo che andando a letto tardi, mamma mia, tribula la cosa, dai. Ascolta, domanda, qualcuno sa se le poste sono aperte anche di sera? Che orario stanno facendo? Non lo so, se non ti risponde Natalino io non lo so, io so solo che vorrei tirare due raccomandate. E sono andato già due volte e mi rifiuto di andarci, perché è peggio di quando eravamo in quarantena con i supermercati, la stessa storia. Poi ci sono le pensioni, in questo periodo Marcello. Ma le pensioni sono da domani? Sono ritirata oggi da fuori. Dalle poste? Allora non ci vado, no, ci saranno tutti quei vecchi miserabili a ritirarsi la pensione, no, Fucci, non ci vado alle poste. Ma poi, allora sai cosa mi è successo? Ho anche bisticciato, con un ex collega che deve essere, non mi ha manco riconosciuto, per poco gli mettevo le mani addosso. Sono arrivato primo lì. Quando mai? Ho ritirato la pensione mia e quella di mia moglie, e poi ci ho infilato il reddito di cittadinanza per vedere se me l'avevano accreditato. Simona Bonzighiccio, che non era giusto vedere quante carte c'è. Ecco, la giudizio. Ho ritirato la pensione. Sempre tutti vuole picchiare. E ho andato a vedere se pensione più reddito. Questo. Comunque ho finito. E me ne sono andato a chi va, non me ne sono voluto attaccare. Ah, capito, Natalino. Ah, due prendi il reddito più la pensione tu. Quella di invalidità, sì, no? Comunque questo qua, sono rientrato, questo qua c'è anche. Però sono stato incorporato, c'è, vabbè. Uno e uno stazionari. Ma non ti vedo assai, non è molto preciso. Ascolta, il bip, metti il bip. Facendo veramente bene lui, se non me lo dici io pensavo che sto vedendo il telefono, veramente bene, complimenti, ottima radio, bella forte, lasciala così e non toccare più niente. Il bip è uguale? Sì, sono uguale. Adesso dell'altro, qua bisogna smontare il tappi, come siamo rimasti d'accordo. Ehi, me li dai e te li faccio. Eppure metti in vendita, sono pronti di scorta, non lo so. Ah, no, l'altro vuole in dibata, non do comunque, no, lo tengo io. Solo vederlo così me ne do nel cuore qua. Già, questa qua è un po' graffiata. C'è anche... Cosa gli manca di grigio, vabbè. Pazienza, passa la disinfetto. Infatti, pulisci va bene, poi quando vuoi mi dai il tappe, già te li faccio io. Ancora te la tieni scorta. Luca, Luca, una domanda. È dietro a qualche targhetta di qualche tipo? Sì, c'è il marchio, c'è, sì. Ah, ottimo, ottimo, quello volevo sapere. Dai, se era un 3009 di 20 anni fa o quelli CE attuali, è buono che ci sia. Sì, sì, no, è abbastanza nuovo, dentro è nuovo, non è stato mai qui, a quanto ho capito non l'hanno mai aperto, poi non lo so. Il campetto della metazione è un po' gugussi, lo dovrei tagliare, l'hanno aggiunto, l'hanno capito, adesso io lo taglio e lo faccio bene. I cosi si fanno bene, no, gussi a culo di scimmia. Sì, comunque se il McGinn era già quasi a manetta, l'hanno aperto e come? Ehi, vabbè, là, comunque va meglio adesso, sì. Guarda, ti posso dire che questo qua non prende i colpi, il Claudio, lo sai, se io mi sforzo non ti sento, con il typo ti sento. A chi, a me? Matto, quello lì è Luca. Allora, scusate, ma se io parlo con Claudio, cazzo, chi mi vuole di ore in mese? Mamma, il video mi fa vedere, così Gianni, cazzo, lei non c'è anche tu, cazzo, di piglia Gianni, boh. Come vedi, io sono rimasto zitto, perché se parlo assieme a Natalino non capisci niente, che ce l'hai attaccato. Sì, sì, sì, ma anche il mio, l'Elbex ad esempio, se Roberto Quadrato si sforza io non lo sento, il Cobra, che è una radio eccezionale, di ultima generazione, chi ne ha più ne metta, io Roberto lo sento, capito? Quelle sono belle radio, bella. Al 12 io non ti sento, ma se vuoi tipo ti sento qua, bella, ma sono contento anche per quello, ma. Ripeto che è un po' graffiata, pazienza. Vabbè Lu, ti ripeto. Io parlo in faccia, poi chi vuole capire capisce, chi si offende si offenda, a me non me ne fotte nulla. Tra la tua radio e quella di Gianni col microfono normale c'è un abisso. Un abisso. Avanti. Ah, ti ascolto, dai. Radio 4 la messeri, che ti ascolta abbastanza bene. E segnale 1-3, modulato 1-1-3, fai portante muta, si vedeva che era 1 e quando moduli sali a 3. Comunque c'è lo Smith qua un po' tirchio, Claudio, tu mi arrivi in 9, fa un passaggio qua. Ciao Antonè, non mi piace quella radio, è troppo cupa, non hai tonalità medio-alta. Vabbè, io te devo arrivare sul più quando sono normale e sul 3 quando sono un po' più spinto. Com'è il segnale? Guarda, ti ho mandato una foto. Molto molto scarso, molto molto scarso, quello vuole regolarlo lui. Deve regolarlo sul mio segnale, io ti schiaccio la portante e lo metti sul più. Vabbè, sono più già caro, non ci più brano. Domani con calma lo faccio. Cosa Antonè, scusa? Sì, ma mancano sempre gli acuti, Mancano sempre gli acuti, Antonè. L'altro è proprio tutti, troppo tonalità bassa. Ok, vabbè, lascialo stare, comunque già va bene. Riprendi in Natalia un attimino che mi assento. K. Anda bene mela. Vabbè là, ne approfitto per fare quello. Quanto devo preparare qualcosa qua, là. Sentiamo alle prossime. Ehi, ciao Natale, buon pranzo. No, il latte è una è un cornetto con la marmellata. Quindi Luca, siamo contenti, dai. Ehi, no, non lo so quello, non lo so il prezzo. Forse anche da fuori l'ha preso. Bene, Antone, tu lo sentivi bene? Sì, con l'MB più 5. Marco, una domanda. Questo maracchino non ha quattro pomelli. Quattro pomelli? Cioè le quattro levette, sì. No, le quattro manopoline della staffa, me. Sì, confermo, ne ha quattro. Due per lato. Siamo andati giù due. Oh, che pasticcioni. Ma credo che si trovino anche dall'Inghilterra. Oppure da vecchi apparati, mi. Magari le levi dal Typhoon se sono uguali? Sì, uso quello del Typhoon. Ce ne sono due del Typhoon, due suoi, poi ne ho messo due l'altro Typhoon, adesso l'altro lo smonto e niente, dopo bisogna carteggiare tutto i tappi, perché fanno schifo, veramente schifo, perché l'avevo verniciato a bomboletta e poi ci ho appoggiato il microfono da tavolo, non so, sono rimasti i segni. Eia, io al momento sto usando quello che hai visto tu in foto quella volta. Allora, Antonello, quando ti arrivo lì a Ossi con 4 watt, guarda un po'. Prova. Passo. Lo passo. Vabbè, 4 più watt. Sì, bassa, è finita. No, sai perché lui sono più watt. No, non è aperta. Il microfono infatti, guarda. E poi c'è il PTT che è mezzo andato. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3, prova. Capaz. Ma Claudio c'è ancora? Nemmeno Natalino c'è. Cazzo, poi il cavetto aggiunto, per carità, adesso tocca farlo bene come le faccio io le cose. Praticamente hanno aggiunto un pezzo di cavo, piccolino, con il cavetto. Eia, io quando ho dato gli apparati, per quanto vecchi fossero, no, di età, li ho dati sempre con microfono originale, cavo alimentazione originale, staffa originale, pomelli, tutto quello che concerneva l'apparato era tutto in dotazione, non che te lo danno con microfoni diversi, cavo tutto attaccato a scotch, niente staffa, lo sai, scegliti bene un apparato senza staffa pure, che non lo puoi manco mettere in macchina. E gli altri hanno chiuso? Avanti. Allora, la modulazione è un po' particolare, ha un effetto eco, però la modulazione è come se fosse lontana, cioè il volume sarebbe buono, è come se parlassi lontano dal mic. Ma se sembri dentro una chiesa, cazzo. Sì, l'effetto è quello della chiesa, ma non ho capito chi è però. Tanto califfo, eh. Oh, yeah. Facciamo l'effetto pappa. No, te l'ho già detto, se sei quello di stamattina te l'ho già detto, sempre dentro una chiesa, non va bene, non è un eco quello è una grandissima stronzata, ti conviene usare senza il microfono normale, no, è bruttissimo, sembri in lontananza, sembra che stai parlando dentro una cattedrale vuota, capito, dentro una chiesa, te l'ho già detto stamattina, è bruttissimo, non è una radio ascoltabile. Beh, le parole però si capiscono, Claudio. Forse lo stesso microfono, la voce si capisce, le parole si capiscono, ma c'è questo reverbero che è bruttissimo, a me non piace, la verità. Non lo so, se lo puoi abbassare, regolare, c'è qualcosa che si può fare, non lo so, siamo qua. È molto meglio, secondo me, ma non, lo puoi proprio eliminare o regolare? No, regolare, fare qualche regolazione, si può anziché toglierlo del tutto. Ma non abbassare tutto, aumentalo appena appena. Prova, mentre stai parlando, aumenta appena appena. dai, avanti, avanti, prova. Aspetta che lo sto regolando. No, è sempre chiuso, aumentalo. Allora, non c'è un minimo e un massimo, non mandare tutto al massimo, ok? Come era prima, no? Tu lo metti tutto al massimo, vai meno del massimo, un pochino meno del massimo. Oh, vedi che adesso ci sei, non è più come prima, adesso va bene. Ok, chiudilo, avvicinatelo alla bocca e lascialo così. La regolazione è questa, perché poco fa c'era troppo riverbero e praticamente sembravi in una cattedrale di chiesa vuota, capito? Ah, KK, molto bene. No, così vai benissimo, alla grande, alla grande. Mentre poco fa era troppo alto, così va bene. C'è un leggero eco, la modulazione è bella e chiara. Marco? Eia, vabbè, premetto che qui arriva più basso di segnale e quindi sento fruscio sotto. Però adesso potrei dire che va bene. Ciao carissimo, alle prossime, lascialo così che vai bene, ok? Così abbiamo fatto un'altra cosa, gappa gappa. Ai ai ai, bisogna inventarvi a voi. Ui ui ui, e beh, Lugariello dove è andato a finire? Oh Lugarieri, aspetta, adesso sì che sei contento, no? Ma non intendi Gianni? Ui ui ui. Ma Marco, tu che sei esperto in questi 3009, c'è tutta questa differenza. Nonostante siano tutti e due aperti, cosa può essere? Diversa casa costruttrice, non lo so. Guarda, quelle recenti la fa la Ranger Communication. E la differenza può essere, prima di tutto, i watt. Mi pare ricordare che Gianni avesse quanti? 9 watt. E non li aveva abbassati. Secondo me se mette 4 watt comincia a migliorare molto la modulazione, perché l'ho provato sul mio, l'ha provato il profeta, proprio gli andava a chiudere la modulazione, gliela chiudeva. E poi sai cos'è? È monofinale, questo 3009 qua omologato, che puoi disomologare, è monofinale, cioè il prefinale è un finale poi, non ne ha due, quindi non puoi spingere i watt più di tanto, non ce la fa. Ah, ecco, io non trovo una differenza, vedrai, quando fanno le prove, cioè se mettono tutti e due il microfono normale c'è un abisso, quello di Luca spinge molto di più, io ripeto, mi potete chiedere qualsiasi cosa, ma io di baracchini proprio non ne so niente, perché non ne ho, non mi piace averli. Io ho in base come baracchini, però sono vintage, quindi questi di ultima generazione io non li conosco. Non li conosco, perciò non so le differenze che ci possono essere. Però Luca dal Typhoon a quello non ha cambiato assolutamente niente. Vale a dire che il microfono è validissimo, e le radio sono tutte e due valide. Quella di Gianni la sento chiusa, potrebbe spingere molto molto di più, come quella di Luca. Non so perché, ci sono due radio diverse, ci sono costruite diversamente, non lo so. Non so niente. Anzi, ti dirò di più, queste radio degli ultimi anni sono di due marche. Una, diciamo, poi no, stavo per dire due fesserie, cioè una la fa la Proxel, la importa in Italia la Proxel, e una la fa la CRT France. Però potrebbe essere che il produttore sia lo stesso, bisognerebbe vederla dentro. Io la CRT non ce l'ho, dovrei fare una ricerca in rete, però credo che abbiano la medesima scheda, che sarebbe la EPT 3006-15C. Capito, Tio, però io non trovo questa differenza, non so, adesso per chi l'ha ascoltato non può dire il contrario, ci sei tu, c'è Natalino, ci sono io, cioè veramente molto molto più forte col microfono normale quella di Luca. Vabbè, non lo so che cosa può essere. Va bene ragazzi, io vi saluto e devo andare a preparare il pranzo, ok? Ci sentiamo stasera se coincide. Ciao a tutti, buon pranzo per l'una. Eia, dai, buon pranzo, buona preparazione, ci sentiamo stasera quando capita, ok? Ciao, ciao a tutti. Ciao, buon pranzo, là, stasera, ciao. Comunque c'è un bel audio questo baracchino, meglio dal Typhoon, ma non è un abisso. Bello, bello, limpido, limpido. Arrivato che... senti, come lo ascolti? 1, 2, 3, prova. Come al solito, bene. Bene, come il Typhoon, come... come al solito, come ti ascoltavo sul. Comunque stavo dicendo che la tua è un po' chiusa, boh, a differenza della mia. Guarda, se ti metto il microfono normale già, aspetta, facciamo la prova veloce. E io ipotizzavo, Gianni, che non fosse di watt. Tu hai detto che avevi 9 watt, giusto? Hai capito, la mia c'ha 10 watt. Se abbassi il watt ti aumenta la radio, è lì il problema. Ogni volta che gli dai gli si vede la radio. Io provo a radio, vai. È un microfono buono, sì, c'è il microfono della presente che è quello spinto, vai. Aspetta, già, senza offenderti, potete fare una prova MB più 5 con i tuoni così come ce l'hai tu e tu Luca con l'MB più 4? Volevo dire una cosa. Che vi stavo controllando con l'analizzatore di spettro del 756. Voglio vedere se i toni acuti sono. Se i toni sono uguali, eh. Oh, io sono agganciato di nuovo con l'MB più 4, guarda un po'. Ora, ora, ora. Prova. Ok, prova tu Gianni. Gianni. E dagli tempo per attaccarlo. Comunque Luca, conferma, è mono finale. Quello che vedi a sinistra è il prefinale. Gianni, sparito Gianni. Ma ce l'avrà conservato, lo sai che lui deve attaccare. Cioè, già hai capito. Se deve attaccare, se ce l'ha, se ce l'ha attaccato l'MB l'MB più 5 al coso, al 3009. L'ha provato ieri. Vabbè, non le vuole fare prova. Va bene, ok, dai. Tu, lascia tutto così, volevo vedere se gli acuti tu erano uguali a quelli di Gianni o erano, c'era differenza, capito? Babbo, dai. Guarda, stavo cambiando l'apparecchio, Claudio, datemi il tempo, eh. Guarda adesso. Però sento un fischio, spegni l'altra radio. Guarda, 1, 2, 3, prova. Prova tu, Lu. Aio, cazzo. Oh, mi sei incantato a me il coso, Luca, scusa. Guarda un po', Cla, 1, 2, 3, prova. Vabbè, c'ha più acuti quello di Gianni, Lu. C'ha più acuti quello di Gianni. Però la timbrica è diversa, perché Gianni sta usando l'MB più 5, tu più 4. Capito? Comunque vanno bene tutte e due, dai. Vanno bene tutte e due. No, ma io appena posso qua ne abbassi il watt. Ne abbassi il watt perché dici sono 9, 9 watt. E se attacco lo distorce subito. E quello è il problema. Che non posso attaccare se c'è troppo il watt. No, come attacco distorce. Anzi, mi hanno detto che è appena compressa, ma non è distorta. Guarda, così ho attaccato, guarda Claudio. Sì, comprensibile, magari a lunga distanza lo puoi anche usare già, però io ti consiglio di portarlo a 5 watt quella radio. E sono sicuro al 100%, anche Marco l'ha detto, che migliori molto, ma molto, molto di più anche la tonalità della voce già. Ma non ci voglio mettere mano io, Claudio, dai, non mi va di aprirlo, di metterci mano di nuovo, lui. Lascia perdere, ho già aumentato quell'affare che era già aumentato, era al massimo e niente, c'è solo da abbassare i watt, boh, basta, tutto lì. Vai a Marco, te lo fa Marco, lo ti avvicini, lo dici a Fabrizio, se te lo fa Fabrizio, cioè te lo fai fare professionalmente, però già, almeno puoi fare tutto quello che vuoi, migliora anche la modulazione, non è che male, eh. Adesso io ti ho proprio misurato con l'analizzatore di spettro del 756, proprio per vedere il punto alto, e siete tutti e due uguali, quindi gli acuti sono uguali, tenendo conto che la tua timbrica è un po' diversa perché tu stai usando un più 5 e lui sta usando un più 4, però va bene lo stesso, dai. Lascialo stare così che va bene. E io i toni li posso ancora regolare, se vuoi li metto, guarda, adesso sono, sono a 7. Adesso li metto a 10, guarda, va meglio o peggio? Va meglio, va meglio. Va meglio a 10? Sì, aspetta Carli, sì, va meglio, ma io te li avevo messi a 10, puoi tenerli anche a 8, ma va bene lo stesso. Cappa, perché me l'avevano fatti abbassare, mi hanno detto forse così che uscivo meglio su 7. Ma se mi danno mi ha detto che uscivo meglio a 7, dai, vediamo un pochettino, adesso così a 10 e così a 7, guarda come va meglio. Va bene, già lascialo qui, perché sono al telefono. Va bene già, va bene, a 10 va bene anche a 8, non abbassare. Ok, vabbè, dai, lo lascio così allora. Gava, ero in giro con la Jeep nuova della Jeep, dai. Sono andato a farmi un giro a Platanoa. Con la Jeep nuova della Jeep? La Jeep, sta la Jeep, cioè? Cioè, ma tua, no, in prova. No, ma l'hanno data in sostituzione della mia perché stanno facendo il tagliando. Mi hanno data in sostituzione. Ah, ecco. Cazzo, 278 euro un tagliando costa. Basta lì che da un meccanico. Farci viaggi non impegno tutti i chissi di là. Se seguite la marina, ma con tagli la macchina vuol dire oltre 2000 euro. La macchina mi sembra che vale 1500 euro. Luca? Sì, ancora, non posso andare da un altro meccanico, poi lo farò, ma se è in garanzia, poi non ti passano la garanzia se non la porti da loro. È capretto? Hai capretto o no? Cuca, cosa ti è successo? Beh, come l'hai trovato, Luca, nuovo? Ogni tanto ne ingaggi dalla sedia, Luca. Marco, bisogna che lo abbassiamo questo affare, aiuto, questo, perché così almeno mi fa distorcere molto, se non mi fa distorcere molto non lo so, perché così lo posso usare anche senza, guarda, adesso metto, ora, guarda, così come sono, distorto, tutto messo male oppure si capisce tutto, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A capire si capisce la modulazione, certo gli fa questa leggera saturazione, così, insomma, vabbè. A prendere 4 watt, Marco, se no glielo faccio io. Abbassagli la 4 watt, se gli apre anche la radio normale, quando si è saltato, se gli apre ancora... E vabbè, certo che ci vorrà un tecnico per fare girare un trimmer, mi basta avere il wattmetro possibilmente preciso e abbassare gradualmente fino ad arrivare a 4 watt. Poi io ho responsabilità con gli apparecchi degli altri, non me ne prendo perché mi può sfuggire il calciavite di mano, finisce sui componenti e buonanotte. Ah, oh, vabbè, e tu lo sai qual è da toccare il trimmer? Scusa, ma se ti ho mandato quello schemino colorato, no? C'è scritto tutto lì, cosa c'è da capire lì? C'è scritto AMFM High Power, è quello, l'unico, perché tu non hai la potenza regolabile, quindi low power non lo devi toccare, se c'è pure. Quindi cosa da toccare è High Power? Sì, AMFM High Power, adesso non ce lo sott'occhio, ma è il VR, adesso te lo dico. No vabbè, già c'è lo schemino, già lo guardo. Già, ma non inserire un cacciavite, guarda, ci vuole... Io me l'ho fatto, dallo stilo della canna da pesca. Ed è perfetto, guarda, è un buon bo. Non mettere cacciaviti in ferro, Ce l'ho, cacciaviti anti-induttivi, Luca, non preoccuparti, c'ho tutto. Comunque mi hanno aumentato la LC e una cazzata, non avevo un tecnico. Tecnico serve solo le cose più, diciamo, più, come si dice? Sono in cazzo di buco, sono stagno, ogni volta mi sparisce la roba, mamma mia, davanti agli occhi, do, sparito lo stagno, comunque per le cose più gravi, diciamo, dai. Appunto, componenti da sostituire, tarature, serie, Natalino. Poi Marco, dimmi. Bello, bello, me lo stavo corteggiando ieri notte. Quale? Quello lì? Quello strumento lì. Bello. Trattalino di Tarascona. A te un attimo, già. Che ti mando una cosa. Manda. Antonello Barracuda, c'è ancora? Vabbè. Boh, stanno da cucinarmi il pesce, dai, ci sentiamo ragazzi. Manda Natalino, quello che devi mandare che vado a vederlo. Non ce l'ho qua, il telefono ce l'ho dentro. Dai, ci sentiamo che vado a cucinare. Oggi pesce e spada, vai. Buono, buono. Vabbè dai, anche io devo scappare, ci sentiamo alle prossime, dai, mandato. C'è qualcuno forse che non sta uscendo di radio, dai saluto Gianni, saluto Natalino, chi è che sta cercando di entrare avanti? Se qualcuno non è... io ho sempre quel problema lì, io che non esco ogni tanto, o sta andando, sì? Sì, potrebbe essere il PTT, no, che fa scarichetto, ogni tanto manca la radio. Grazie Marco, sì, ero io che non stavo uscendo. Ah, ciao Ricca, cosa avevi, il mic gain abbassato? No, ce l'avevo al massimo, bisogna rifare le connessioni, deve essere all'MB più 5, stavo provando un MB più 5. Riccardino. Chi è che chiama Riccardo? Avanti. Sono Concetta. Inteso hai, Riccardino. Aspetta, ero distratto perché stavo guardando, perché stavo chiamando una cosa del microfono. Che cosa? No, ho capito. Stava salutando la mia 50, hai capito? Cuocuomane. Punto Cuocuomane, Natalino. Ciao Riccardino. Ciao a tutti. Sì, come ho detto, stavo facendo delle prove, non stavo uscendo. Bisogna rifare le connessioni, ho appena comprato il microfono e non va bene. Dai che scappo, che sennò qua non si mangia oggi. Buon appetito. Grazie altrettanto. Quando lo farai? Tutti a mangiare sono andati. Bene, va bene Ricca, ho capito che devi rifare le connessioni bene all'MB più 5, ok. Dai, sentiamo stasera. Ciao a tutti, ciao Ricca, io adesso faccio roba, lo sono lo stesso in casa. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Marco, che è rimasto PH10. Riccardino, mi senti? Sì, che ti sento. Ok, va bene. Ehi, comunque come ho detto, saluto a tutti. Luca, è che non ho il tuo numero di telefono e molti di voi non possono darmelo. E volevo mandare una foto di alcuni microfoni che ho comprato dei vari microfoni oggi. Segnato, non ci sono problemi, io non ho niente da nascondere, segnato, lo vuoi? Sì, aspetta che vado giù, però vai, aspetta, tastiera, vai. 347. Poi? 2 volte 54. Non ho capito, 347? 2 volte 54. 54? 2 volte. Non ho capito, 347, 54, 54? 201. 347 545 4201. No, assolutamente. Ti ho detto 347 2 volte 54 201. Così 347 54 54 2001. Ok, sì, manda. No, non 2001, 201. Eia. Riccardi, non è che hai sbagliato un numero? Sì, mezzuzzara. Che sto facendo male? Tutto male? Tutto fuori frequenza, chi è? Io via. Cro, nulla, Oggi Luca è pigione, appare e scompare. Come ti? Io sento la modulazione impastata, è come se ci fosse il processore troppo alta, troppo abulotosa. E beh, adesso sì, yes, ma non sei Tino? Ah, Antonio Riserva, ci stavo preso per Tino. Va bene, si ha fatto un po' di prove, tutto bene. Eia, è arrivato il baracchino 3009, lo stava provando, è già pompa, dai. Eia, solo che io li avevo pregati in tutti i modi, anche in giro, che comprassero nuovo per evitare sorprese, e invece tutti l'hanno voluto usato. E che te devo dire, qualcuno è andato bene dalla prima, qualcuno un po' meno bene. Ma credo sia una questione di watt, per siccome è monofinale, cioè più di 9 watt alla fine non ti dà, no, però ti chiude la radio completamente, te la chiude parecchio, ho provato altre persone. Monofinale di più di tanto non li puoi dare, puliti 6 watt, puliti, però già dai 7 ti chiude un bella radio. E comunque per pilotare eventualmente roba meglio averne 4. Tanto bene o male tutti pilotano qualcosina, no? Puntini. Quindi dai 4 e non satura niente. Cappa. E poi sai cos'è? Il 3009 non ha la regolazione dei watt. c'è poi una potenza fissa, quindi tanto vale lasciarli bassi. Quindi 4 watt è l'uscita normale, poi se vuoi attaccare la scarpetta, la piloti bene, esce bene, tappa. Luca, sei rientrato? Uccelli di bosco. Sì, praticamente sì. 30, 40. No, vabbè, ciò va bene, però un po' graffiatino di manopole, ho capito. No, io mi dispiace, io li ho avuti nuovi, due e uno col frequenzimetro che ho regalato, perché non lo usavo. Regalato da quasi nuovo praticamente. E comunque ha ragione Claudio, cioè il 3009 è una radio banale, non credo che abbia questa roba, però a parità di prezzo, visto che adesso ti faccio un paragone terra a terra, visto che ormai un Alan 48 lo paghi 170 euro, no? Quello tutto SMD, e c'hai noi solo MFM, cioè 179,90 o quant'è, almeno c'è anche la banda laterali, esce bene di radio anche da omologato, cioè una modulazione abbastanza limpida, tutto il resto non si usa, come ho detto ieri, si usa volume, squelce e canali, tanto noi siamo sempre in AM, sempre sul 10, e alla fine tutto il resto non serve, ma che ne refegin devono stare a manetta, perché non te la abbassarli, eccetera eccetera. Poi questi tastini che hanno messo canale 9, per cosa? Perché era in emergenza chi? Non c'è più nessuno all'ascolto, non c'è né il CISA né nessuno rispetto a una volta, il FIR, scusa il CISA, cazzo sto dicendo, il FIR, il SER, ti ricordi che avevano stazioni di ascolto per le emergenze, però era all'epoca che non esistevano cellulari nemmeno. Mi date un controllino per favore? Buono Riccardo, cos'è il più 5? Sì, positivo. Vai Antonio. Ok, ciao a tutti, volevo sapere se adesso è più amplificata comunque, visto che è un MB più 5 rispetto al Palmare. Ah ecco, se c'è qualcun altro che mi può dare un controllino, così vedo che mi ha già sentito con il Palmare, o se no stacco e metto il Palmare prima. Sì, a me sembra più pimpante rispetto al Palmare, dai. Sì, abbastanza, cioè non la definirei una modulazione con mic normale. Sì, diventa tutta... e c'è una specie di rumore stridulo, una specie di sfarfallio stridulo. Sì, normale, ma abbastanza buona, cioè non come un mic normale, un po' di più. Luca, ci sei all'ascolto, Luca del Monte. Niente, stavo notando da una foto che mi ha mandato che questo 3009 non ha la scheda marcata Ranger Communication Malaysia, che sono le ultime, è più vecchia, non ha quella scritta lì, non c'è la versione della scheda nemmeno. La mia è una EPT 3615C, che dovrebbe essere quasi l'ultima versione per il 3009, l'ultima fatta. E poi il finale strano, vabbè, magari una versione più vecchia, volevo chiedergli se aveva l'attacco del frequenzimetro dietro, ma non ha chiuso, vabbè glielo chiedo stasera, e io l'avevo preso ma poi non lo uso perché, a parte che come scalda, man mano che scalda un po' si sposta in frequenza, no? Fino a stabilizzarsi. Allora come vedo sempre che non c'è il 5 finale, sto sempre lo 0 finale, sto sempre a correggere col clarifier. Che palle. Sì, costava un po', anzi prima costava meno, adesso costa ancora di più, perché sono gli ultimi esemplari in vendita. Sì, più che altro per la banda laterale, che ne so, se ti dicono sui canali alti vai a 615 e io o mi tengo una tabella di canali o... Ecco, in quel caso, solo in quel caso può essere utile, ma per parlare qua, cioè praticamente potremmo avere noi solo un canale, lo sai, un canale in AM, posso anche togliere la manopola di canali dal baracchino, tanto siamo sempre in hobby. E infatti alla fine non conviene prendere mega apparati o amatoriali o watt su watt per parlare poi in città sul 10, proprio non c'è tanto. Vai Riccardi. Ok, aspetta, mi sposto un attimo, mi assento che faccio altre prove adesso con questo microfono e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti. A dopo Riccardo, ciao. Ah, tipo mezza serata, così. Sì, è un periodo. Mi dà un controllo, è così come sto dicendo, cioè, tutta la sera così passa poi. A chiedere controlli. Ma sai, gli è arrivata un'infornata di materiale a Claudio, tra radio e microfoni, credo. Sì, i microfoni sì, li ho visti. Quindi sta provando i vari accoppiamenti, poi lui già c'è un bel di radio, no? Quindi deve provare dove va meglio o come va meglio, dove più metallica, dove più cupa, eccetera. Va bene. Devo fare commissioni, sono ancora in perizoma, sono, per carità, devo uscire stasera, questo pomeriggio, a fare commissioni. Oh, ma... Dimmi, Luca. Quando ti arrivo di segnali, guarda, il 3009 stai usando? Sì, ufficialmente sì. In realtà no, è quello che hai visto tu, l'ultimo. Ok, dai, no, volevo sapere il segnale tuo, in base al tuo segnale, perché questo qua mi sa un po' attaccato, lo smetto, Poi un po'... Prova, dove ti arrivo? Vabbè, qua 9 più 30, già lo sai che di più non va. Anche quello a LED non va di più. Siamo sempre lì, siamo troppo vicini. Tu sei 9.10, 9.15, dai. Come, non arrivavo a 9 più 30 e non è azzeccato per niente lo Smither. Appunto, questo qua è diverso dall'altro, ma l'hai detto anche tu stesso che bisogna arrivare allo Smither. Allora, domanda Luca, il QRM, il soffio di fondo, quanto ti segna sullo Smither? Zero. Anche quello, Lazy Smither. No, tutti i 3009 sono così, lo sai. I 3009 in particolare, ma credo anche i Tornado e Pluto. Bisogna cambiare il diodo della sensibilità dello Smither con uno al germanio, di una certa sera. E poi va ritirato col generatore di segnali, quindi non è roba... Lo può fare Fabrizio quello, ma non noi. Perché sono sciabidati, cioè come esce di fabbrica, segna segnali bassissimi. Il QRM più o meno è a 3 qua, 3 più o meno, qualche segnalino di propagazione, per esempio quanto ce l'ha Fabio? Ah vabbè, tu sei un antenino, non fa testo però. Fabio, Antonio, il QRM. Ciao, vabbè, anche l'antenna è un po' messa male, Anto. Ascolta Marco, ti volevo dire una cosa, me ne sono dimenticato, ma che cazzarola. Luca, una curiosità, dietro dove c'è la presa cuffia e la presa CV, c'è quell'attacco orizzontale a 6 poli per il frequenzimetro? Sì, che c'è. Beh, buono, dai, allora non è troppo vecchio come edizione. No, perché notavo nella foto che mi hai mandato che manca quella serigrafia Ranger EPT 3615C, quelle sono le ultime serie, quella è una serie precedente, però per fortuna c'è l'attacco frequenzimetro. Che si compra a parte ovviamente. Ti volevo dire, aspetta, non me ne sono ricordato, scusa Cla. Ti volevo dire Marco, ma la staffa è regolabile, è vero? Mi confermi che è regolabile o no? Ehi Claudio, adesso ti rilancio, tre posizioni, c'ha tre dentini, dai, tre posizioni la puoi mettere. Vai Claudio. Ehi, a tre posizioni, come il copro lo stesso, c'è avanti. Ho detto lui, quando lo vuoi regolare, io ti metto la portante, ci andiamo in un canale dove non c'è nessuno, piano piano te lo porti sul più il mio segnale. E così ce li hai tutti uguali. Sì, no, ma adesso non ne ho voglia, un altro giorno Cla, domani c'è una giugana. Perché io gli ho detto a 25 che stavano andando al mare, se andavo al mare con lei, ma gli ho detto una giugana. Sono una giugana Cla. Dai, un altro giorno magari. Sì, quando vuoi, però come riferimento lo facciamo, capito? Visto che tu sai dove è il mio segnale sul più, metti sul più. Allora, aspetta, qua c'ho lo schemino, aspetta, allora. Dovrebbe essere, allora, vaffanaboli. RF, Smither, mettere, vabbè. Il VR8 può essere. Allora. AMFM Smither VR1 per l'SSB VR2. Ah, ecco. ecco, lì ce ne sono anche sotto, sì, perché io sto guardando quelli evidenziati di rosso, AMFM e Smitter, c'è di ricezione? Allora, quelli segnati in verde sono la ricezione, quelli con la freccina verde, no? E la cornicetta, AMFM e Smitter. Tu vuoi regolare lo Smitter in ricezione, giustamente, se no c'è anche per la trasmissione, poi mi, anche se quello è molto relativo. Sì, il VR1 è quello della trasmissione. Però Lu, cioè, se non hai un... ti spiego, tu ti puoi regolare anche il 9 come un apparecchio HF, però poi ti falsa segnali bassi, devi imparare a leggere con lo Smitter, come ho dovuto fare io, controllando la corrispondenza del keyboard per dare segnali grosso modo veritieri. Vai Antonio. Un'idea, come con dei tappini di gomma da togliere magari all'istante per fare regolazione al volo. Però Lu, non toccare, cioè inutile, poi tanto, cioè, ti falsa i segnali dopo il 9 e sotto il 9, me. Antonio, non so se avevi visto quel video in inglese, Lazy S-Matter, Lazy S-Matter, devi cambiare un diodo e poi ritirarlo qualcosa di segnali, però quella è roba da laboratorio, certo non è roba che può fare, possiamo fare io e Luca. Non mi ricordo bene, sì, questo parlava, questo inglese, di un diodo al germanio, che era molto più sensibile rispetto a quello che c'è di serie. Cioè, ma che senso ha vendere anche un baracchino, per quanto possa essere economico, tra virgolette, e avere uno Smitter che segna tutto falsato? Boh, vabbè. E io una cosa non ho capito, ma il Santiago 9 a quanti microvolt corrisponde? No, perché se leggi secondo le direttive IARU o il parere IARU deve essere tot microvolt, secondo altri ho letto 100 microvolt e non so chi ha ragione, cioè non è una cosa di opinioni, no? Si parla sempre di HF, no? Banda CB che comunque rientra nello spettro HF. Anche, ma ho visto questa... sì, secondo il regolamento IARU, cioè adesso ogni... cioè non lo decide una norma, una cosa empirica, ma in base a... aspetta, un messaggio su messaggi, mamma mia, un attimino, vai Claudio, tutti messaggiandomi, la bagassa sua, c'è uno che mi ha mandato un messaggio, sempre cagate, scusando il termine, alle 6:15 di mattina, ha sentito questi due squitti di WhatsApp, insomma, ma non è un'ora consona però, o è suonato il tipo, ha perso la cognizione del tempo. Oh, comunque ce l'ho visto dal iPhone a questo, l'audio è un buon po', La ricezione? La musica è bella, bella, bella, chiara, limpida. L'altoparlante è più nuovo, quello ci avrà 30 anni almeno. No, vabbè, l'ho messo una casa esterna comunque, è una casa della Sony. Anche con la sua autoparlante già è abbastanza... No, proprio riceve bene, invece l'altro sente, se ne ha lì fuori, li sento tutti così, un bel impastati. Adesso l'unica cosa che devi fare tu, Luca, sai qual è? Sistemate quel microfono, perché ogni tanto manchi di radio. Casino. No, problema suo, manca di radio ogni tanto, c'è un problema sul PTT. Vabbè, io vado a pranzo, ci sentiamo ragazzi, ciao. No, rimani. Non penso, Marco, quasi non ho messo qui, ciao. Un pranzo di traverso si dice, ciao. Grazie, grazie, aspettando. Dunque, stavo guardando. Ok. 4 watt, dai, sì, già sono 4. Eia, basta che non si metta a toccare tutto, perché lì come vedono lo schemino cominciano, allora potenza, trick track, poi anche i trimmer, per quanto grandi siano, girateli piano, poco per volta, no, con delicatezza. Io avevo visto Pomponio girare un trimmer, sembrava che stesse dando la carica a quei giocattolini a molla a chiavetta, ti ricordi? Tra. Cioè non facendo piano, così, tra, da un estremo all'altro, tra, piano, mamma mia, le mani in testa avevo. Ho poco ci mancava. No, vabbè, però io sono molto più delicato, anche perché se faccio danno poi è un problema. E io li avevo visti, peraltro costosi, degli antinduttivi, può essere che fossero in ceramica. Oppure se uno è costretto a usare quelli metallici, soprattutto con questi apparati tutti micro miniaturizzati, cosa deve fare? Almeno toccare un qualcosa di metallico, una struttura metallica per scaricare l'elettricità statica del corpo, giusto? Ma infatti ho visto che influisce, cioè devi spostarlo appena, togliere le cacciavite e provare, per esempio privato, perché sennò influisce. Mi sembra che sì, qualcosina la faceva se ce l'avevi infilato. Ma io, vabbè, li ho persi quasi tutti, avevo quelli in plasticaccia della, non mi ricordo la marca. E praticamente li avevo ordinati da GBC, no? Lì è una pantomima, era, cioè passano un po' mezzo e devo ancora arrivare 2 mesi, volevo vedere fino a quanto arrivava. Dopo otto mesi che non erano arrivati, apro eBay, gli stessi cacciaviti ordinati, in 3 giorni sono arrivati. Ma perché questo? Cioè, fa prima dire, guarda, non te li ordino perché tanto me ne dimentico, oppure ordiniamo solo roba grossa, grossi stock. Volevo vedere proprio fino a quanto arrivava, mi pare una cosa ridicola, vabbè. Sì, ma infatti guarda, il 90% di roba io la compro da eBay, comunque da fuori, da Media Globe. E qua non trovi nulla, cioè. Caspita, vabbè. Oppure lo trovi contingentato, come se fossimo in tempi di guerra, no? E come gli arrivano 8 metri, che ne so, di H155, dopo 2 giorni non viene più. E poi prezzi pieni, cioè applicare i prezzi di listino, cioè mi pare 190-200 euro un Alan 48, no? Che non è più quello di una volta con i componenti classici, è tutto SMD, a molti non piace. Ecco perché dico, in più, ecco, conto una cosa, il 48 piglia colpi, piglia splatter, battimento, il 3009 non prende il battimento che piglia il 48. Sì, è vero, lui ha solo Midland. Cosa aveva? Di più simile possibile al 3009 aveva il, come si chiama quello, il frequenzimetro? L'Alan 8001. Mi pare ne avesse uno ancora, lo stavo dando alla folle somma di, ma me l'aveva detto Claudio, non me ne ricordo, ma era tipo 300 euro, ci compri un 440 ormai. Infatti lo dovevo comprare io, ma ne voglio 300 euro, nessun altro, e quindi non ne ho preso. Aspetta, Natalino lo sa forse, Natali, vieni avanti, quanto era il prezzo, 280 o 300? 100 rovuria. Ecco chi lo doveva prendere, sì, 300 euro, cioè in lire sarebbero 600.000 lire, a parte che anche l'8001 una volta almeno era componenti classici, poi hanno fatto i primi, ho letto comunque di peste e corna, gente che si è lamentata molto, ha avuto mille problemi, che anche l'assistenza poco ha risolto. E la stessa storia dei 48 BSX, no, che erano mezzi, i primi, no, il passaggio proprio dai componenti classici agli SMD, gente che non è cavato piedi, un casino, poi problemi, davano problemi anche già appena comprati, proprio vabbè, tutta roba fatta pagare con soldi buoni, però poi il resto non era buono. Sì, infatti, poi come dice Roberto Quadrato, ci sono anche dei pregi, non so, adesso non mi ricordo quali siano i pregi, comunque sono fatti bene rispetto ai primi tentativi, no? Tipo il 48 BSX, tipo i CRT 6009, 7009, 9009, già sono belli dentro, sembrano dei cellulari e funzionano molto molto bene anche. E poi un occhio, mano ferma anche, saldatori aria calda, sì, infatti non è. Prima sai cos'è? Troppi pasticcioni ci mettevano mano ai componenti classici. Proprio saldavano, cambiavano componenti, adesso è più delicata la cosa. Infatti io sono convinto che molta gente si lamenta per quello.